Welcome to Teso Show! Ladies and gentlemen, gustatevi lo spettacolo! Heist! Man! Io no che non mi muovo di qui, le ladies vogliono me, brand new city, cucis, vogliono il bling, mica i vostri beat, un giorno leggendo il nome sopra i vostri jeans. E Jewel Club, chi se ne dimentica, il retro di quella là sembra plexiglass, e la faccia con il tuo culo sembra identica, povero me che sta molto perso l'identità. We love, per la gente di città, che una birra giù al bar è già serie A, che cosa c'è che non va, non ho serietà, benvenuto nel mio programma, il mio varietà. Abbiamo artisti, film, DVD, CD, prodotti chimici, per voi tossici, se ascolti me non arrivi neanche ai 12, questo è il mio show, vedi un po' se lo fottiti, giro 60 Hz come DJ Shock. Che per tapparti la bocca sono la busta di cocca. Ed oramai che la mia scena è morta, voi vi lascio la fetta o mi prendo la torta dalla video. T-E-S-O, nega somiglio nel mio video, esco dalla TV nel mio video, tu che cazzo ridi sei ridicolo. Dammi le mani il mio fumo perché sto bene così, dammi i miei cani e domani sarà lo stesso film. Io non vivo reale, vivo un reality, e finché tutto resta uguale scapperò di qui. Dammi le mani il mio fumo perché sto bene così, dammi i miei cani e domani sarà lo stesso film. Io non vivo reale, vivo un reality, e finché tutto resta uguale scapperò di qui. E ripeto, non mi muovo di qui, beautiful groupies, amatemi, senza dubbi vi griderò, fate police, c'è la volante, arriva l'irista, lo demora, mora, mora, killa, killa. Per un misero strip, qua la gente mi bella, voglio ancora, ancora, ancora che la gente mi strilla. Con le team sopra il palco, corso mille miglia, no, discussioni tipo MSN, zero chat, MySpace o SMS. Tu vuoi fatti miei insieme a questa gente, io che sono un esempio dell'esempio da sempre. Ho preso i moni che ho, li ho fumati, il resto l'ho dato presto agli avvocati. Adesso mentre mi tengo i connotati, ripensa al tempo che ho perso, sei rovinati. Dipende da che dipende, dalla fortuna, e mi pende, il mio culo trema dalla paura. Non vendo perché si vende la spazzatura, il mio show è solo un altro flop che non ha censura. Dammi le mani il mio fumo perché sto bene così, dammi le cani e domani sarà lo stesso film. Io non vivo reale, vivo un reality, e finché tutto resta uguale scapperò di qui. Dammi le mani il mio fumo perché sto bene così, dammi le cani e domani sarà lo stesso film. Io non vivo reale, vivo un reality, e finché tutto resta uguale scapperò di qui. Dammi le mani il mio fumo perché sto bene così, dammi le cani e domani sarà lo stesso film. Io non vivo reale, vivo un reality, e finché tutto resta uguale scapperò di qui. Dammi le mani il mio fumo perché sto bene così, dammi le cani e domani sarà lo stesso film. Io non vivo reale, vivo un reality, e finché tutto resta uguale scapperò di qui. Thank you.